בלו טיים. בלו טיים. בלו טיים. Devo registrare le ultime cose, ti vedo bene Maurizio. Sì, buonasera Gil. Buonasera Maurizio. Sì, ci ritrova dopo 2 settimane mi pare. Ti sono mancato. Eh sì, decisamente. C'era Sergio che ti ha sostituito, ma sei ritornato. Certamente, certamente. Ciao Maurizio, ciao Blu Radio Veneto, ciao carissimi ascoltatori. E questa sera abbiamo un'altra puntatona. Caro. Lunga, lunga, fino a mezzanotte. Anzi, cioè, doppia intervista telefonica. Esatto, e poi una band dal vivo, in Meschina, che sono andati a rifocillarsi e poi ritornano. Allora, caro Maurizio, io faccio una cosa del genere. Guarda, mi alzo, mi inchino e presento Anna Maria Castelli. Buonasera, Anna. Maria. Anna Maria, buonasera. Buonasera a tutti voi e a tutti gli ascoltatori. Ciao Anna Maria, un grandissimo piacere averti qua con noi questa sera. Ce l'avevamo già detto in privato, però lo dico anche pubblicamente perché questa è una realtà. Grazie. Non sentiamo le cicale però noi. E invece qui ci sono, stasera sono veramente in concerto. Visto la calura, chiaramente sì, per quello. Sì, stasera la fanno da padrona qui. Mi sa proprio, ma solo qua, solo là, penso di tutta Italia. Allora, cominciamo a parlare chi è, cosa ha fatto. Beh, cosa ha fatto non basterebbe certamente un'ora di trasmissione, Maurizio. Certo, certamente un curriculum enorme, Anna Maria, enorme nel senso positivo del termine, chiaramente. Un po' troppo pesante, cerco sempre di sintetizzare, ma si sommano le esperienze... E lasciarne fuori qualcuno è sempre molto complesso. Sì, è vero, è verissimo. Fra tutte tante esperienze che hai fatto una cosa particolarissima. Sei stata da Helsinki, hai collaborato con un discorso con la musica vicina a quella terra lontana. Anche quella è un'esperienza particolare, molto d'avanguardia, secondo me. Sì, soprattutto perché Helsinki è veramente un paese molto strano, nel senso che è direttamente proporzionale al grigiore che vivono per gran parte dell'anno, con una vivacità culturale e musicale veramente eccellente. Quindi hai solcato la musica elettronica, sei stata al Festival di Montreux, hai vissuto la musica a 360 gradi, possiamo dire questo, Anna Maria? È vero, mi piace molto. L'unica cosa che ancora non ho fatto, ma che forse non farò perché non me la sento ancora, è il fado. Per il resto credo di aver perlustrato un po' tutti i territori musicali, dal jazz al tango, alla canzone francese, alla musica elettronica, italiana, sì, napoletana. Di tutto, hai cercato di tutto, hai scrutato di tutto, hai trovato, perché sei una ricercatrice, ami trovare, cercare, allargare gli orizzonti, secondo me. È vero, perché penso che tutto poi si sommi, si ricongiunga e faccia sì che poi non c'è un genere preciso, ma ogni cosa arricchisce quella successiva. Tra l'altro diciamo che si parlava in lingua napoletana, però canti anche, dalle notizie che abbiamo, anche in 5 lingue. Sì, francese, 5 lingue. Francese, canto, poi diciamo canto, non parlo 5 lingue. Poi parleremo un po' di tutto. Allora, diciamo anche cosa presentiamo stasera, perché dobbiamo presentare una doppia cosa, non sarà facilissimo, ma noi ci proviamo. Allora, Anna Maria Castelli è con noi per presentare intanto il suo CD, che però vorrei che lo dicessi tu come si chiama questo CD, perché non ha lo stesso valore se lo diciamo noi, perché io ti ho visto a dirlo più di qualche volta, ma lo presenti in una maniera particolare che già dà già un significato. Come si chiama il tuo CD, Anna Maria? Io ho perso. Chi ha vinto? E qui ci sarebbe tanto. Già un'intonazione diversa, quello che possiamo dare noi, chiaramente. Che mi ricorda, dopo parleremo anche appunto delle tue presentazioni in teatro, tanto cos'è la destra e cos'è la sinistra, una cosa del genere, una cosa che lascia tanti, tanti dubbi, tante riflessioni. Sì, esatto, sì, esatto, penso che ho vinto, poi non so, posso dire che di cosa si tratta? Certo. Il, questo disco è nato da uno spettacolo di teatro canzone, ispirato al teatro canzone di Giorgio Gaber, che comprendeva sia monologhi che brani musicali, perché il teatro di Gaber era così, quindi c'erano questi monologhi tutti con un unico filo, un unico tema, però che si snodava tra testi recitati e cantati. E questo è stato bellissimo, perché è veramente uno spettacolo molto interessante, è stato un film di Venezia Giulia, è stato in vari teatri italiani, e poi ci dispiaceva lasciarlo, diciamo, un po' così, come uno spettacolo live e basta, perché estraendo le parti musicali ci siamo resi conto che comunque rimaneva questo filo conduttore, e allora abbiamo proprio preso nello stesso ordine della scaletta dello spettacolo tutti questi brani, li abbiamo registrati con i miei compagni di viaggio, che sono Franco Sinigaglia alla fisarmonica e Marco Cremassini al pianoforte, e abbiamo registrato questo disco con questa etichetta romana di Rosario Di Bella che si chiama Mare Mosso, e io devo dire che per me, che ho fatto diverse produzioni discografiche, questo è veramente il disco che mi rappresenta di più. È stato il giro di boa di un artista che arriva a un certo punto, mette un punto e poi gira a volta pagina e comincia un altro lungo capitolo, insomma. Certo, diciamo che oltretutto questo CD è in corsa per il premio Tenco. È in corsa per il premio Tenco e veramente non sappiamo come si fa a sapere quali sono le sorti di noi artisti che ci candidiamo, però devo dire che per le varie caratteristiche che questo disco ha, perché è estratto da uno spogliato canzone, perché comunque sono ormai considerato un interprete conclamata, diciamo. Sì, molto conclamata, molto Anna Maria, conclamata. Molto conclamata per questo. Quindi insomma, noi speriamo, però poi come andrà chi lo sa, ma ci farebbe davvero piacere, ma non tanto per il significato che ha rivestito per me, per i miei compagni di viaggio, tutti quelli che ci hanno creduto, gli autori, i musicisti, l'etichetta, insomma sarebbe un premio per tutti noi, ecco. Però vediamo come andrà a finire, ci risentiremo magari quando avranno dichiarato i vincitori dei vari che possono avere varie categorie. Esatto. Prima di passare al primo brano, volevo ringraziare anche l'etichetta Mare Mosso, appunto, e poi ringraziare anche Alessandro Hellman che mi ha dato questa possibilità di metterci in contatto con Anna Maria Castelli. Anna Maria, però diciamo che ci sono stati anche una cosa che ci introduce in pratica al prossimo brano. Volevo parlare anche un po' brevemente anche di Mare di Mezzo. Che tra l'altro lì siete riusciti in qualche maniera a suonare la chitarra di Fabrizio De André. Sì, è vero, perché io ho avuto questo rapporto privilegiato con il negozio di Gianni Tassio, che ha faticosamente conquistato questa chitarra di Fabrizio De André, grazie a un progetto precedente che era dedicato ai cantatori della scuola genovese, questo disco molto bello che si chiamava C'est toujours la même chanson, e poi l'abbiamo utilizzata anche per il progetto con questi testi di Paolo Bergamaschi, e la chitarra veniva suonata da Simone Guiducci, e anche lì siamo sempre in un concept album dedicato a temi diversi, perché lì si parla del Mediterraneo, però anche questo un altro progetto molto, molto interessante, sempre d'autore, sempre canzone d'autore. Allora, Anna Maria, io direi di ascoltare il primo brano che bene o male ha qualcosa a che fare con questo periodo. Io voglio ascoltare una canzone particolare, che è una canzone, una rivisitazione di Ragazzo Mio, di Luigi Tenco. Ecco, però, che io l'ho presa da un video, però ho lasciato, prima che tu inizi a cantare, una introduzione con la voce di Mario Valdemarin. Esatto. Mi è piaciuto tantissimo questa introduzione, poi alla fine l'ho sentito anche emozionatissimo quando ha pronunciato le ultime parole, e ma questo mi ha colpito tantissimo, mi ha emozionato tantissimo, e poi questa tua interpretazione che veramente è da ascoltare. Grazie, l'ascolto molto volentieri anch'io. Allora ascoltiamoci Ragazzo mio, interpretata da Anna Maria Castelli. Non c'è nessuno nel rifugio, solo il vecchio custode dalla pelle color della terra segnata dal sole e dal vento. Vecchio? Ma non sapresti dargli un'età. Potrebbe avere l'età che aveva mio padre quando già lo consideravo vecchio e mi preoccupavo per la sua salute. Credo di avere adesso proprio la stessa età che aveva lui, mio padre, e probabilmente i miei figli pensano di me ciò che io pensavo allora, e si preoccupano di me non meno di quanto mi preoccupi io nel vederli invecchiare. Ragazzo mio, un giorno ti diranno che tuo padre aveva per la testa grandi idee, ma in fondo poi non ha concluso niente. No, non credere, vogliono far di te un uomo piccolo, una barca senza vele. No, non devi credere che quando si alza il mare gli uomini senza idee per primi vanno a fondo. Ragazzo mio, un giorno i tuoi amici ti diranno che basterà trovare un grande amore per poi voltare le spalle a tutto il mondo. No, non credere, non metterti a sognare lontane isole che non esistono. No, devi credere, ma se vuoi amar l'amore, tu non gli chiedere quello che non può dare. Sentirai dir dalla gente che al mondo stanno bene solo quelli che passano la vita a non far niente. No, non credere, non essere anche tu una chiappa nuvole che sogna di arrivare. No, no, non credere, no, no, non invidiare chi vive lottando invano col mondo di domani. Veneto. Blu Radio Veneto. SMS 346 23 20 033. Blu Time. Blu Time. Blu Time. Ecco, dentro a questa canzone ci ho trovato una parte di te, cercando di conoscerti un pochino, Anna Maria. Quando dice sì. Vogliono far di te un uomo piccolo, una barca senza vele. No, sì. Non devi credere che quando si alza il mare, gli uomini senza idee per primi vanno a fondo. Esatto. Qui ho trovato un po' quello che Anna Maria gli si, come posso dire, gli si veste addosso. C'è un'Anna Maria che canta e canta per lasciarci dei dubbi. O mi sbaglio, Anna Maria, è così? No, non ti sbagli. Infatti la cosa che io dico sempre, quando mi fanno che cosa significa essere cantatrice, è mettersi a disposizione della parola che si canta, perché questi autori che hanno scritto dei testi bellissimi spesso non sono stati ascoltati profondamente, perché siamo sempre stati tutti molto più interessati all'interpretazione dell'originale. Insomma, De André, quando cantava le sue canzoni, si ascoltavano tante cose. Anna Maria, posso chiederti una cortesia? Prova a spostarti un po' col telefono, che prima c'è stato un momento che si sentiva benissimo. Aspetta, tu adesso mi risenti meglio qui? Prova a parlare, vai, continua pure intanto. Mi senti adesso? Sì, sempre un po' ovattato. Prima c'è stato un momento che ti sentivamo benissimo. Purtroppo vivo in un monastero. Eccoti, adesso mi sentivo bene. Ok, allora, vi siete persi qualcosa, ripeto. No. Mm-hmm. Prosegui pure. Vai. Okay, no. E quindi io canto la parola, proprio perché credo che certi testi vadano ascoltati e riascoltati, perché in questa frase che tu hai citato c'è veramente il mondo di oggi, ma in quella canzone che già era profetica, perché è stata scritta veramente decine di anni fa, però c'era il mondo di oggi. Quindi è tutto ciò a cui non si deve credere, perché le nostre idee, quello in cui crediamo è la cosa importante, invece stanno cercando ormai da tanto tempo di toglierci anche quello, il credere in qualcosa, l'essere motivati per raggiungere un obiettivo. Quindi per me quella canzone è piena di contenuti, di senso, e a me piace sottolineare, quando io canto una canzone non mi interessa farla musicalmente bene, tecnicamente bene, mi interessa che passi quello che l'autore voleva dire. Per me è fondamentale. Ma particolarmente l'approccio proprio con Luigi Tenco, com'è stato per te? Con Luigi Tenco, soprattutto con lui. Tu hai detto una frase molto bella: i testi di Luigi erano profetici, si parlava degli anni 60, adesso siamo negli anni 2000, lui era molto avanti rispetto all'età in cui cantava. Sì, era troppo avanti, infatti poi... Appunto, sappiamo purtroppo cos'è successo. C'era questo scollamento con quello che lui sentiva, con la sua sensibilità, la sua preveggenza anche con la realtà che lo circondava. E quindi quando io ho... Come, scusa? Dimmi, No, perché purtroppo ho un eco. Vabbè, no, ok, tutto a posto, puoi proseguire. Gli ascoltatori avranno il bello della diretta, ecco, sul cellulare, purtroppo. E quindi conoscere Tenco, per me, che io ho ascoltato da sempre, ho scoperto delle canzoni, una più bella dell'altra, anche quelle magari meno conosciute. Quelle minori, per così dire. E quindi Tenco, così come gli altri di quella bellissima scuola che è stata quella dei cantautori genovesi, avevano tutti in comune, in particolar modo io l'ho trovato in tre componenti, sì, di quella scuola, che sono Tenco, Bindi e Bruno Lauzi, sì, che per me sono veramente i più grandi i più grandi rappresentanti di quella scuola. Tutti poeti, però, tutti poeti comunque con un disagio. Si parlava prima del Tenco, io mi ricordo che l'ultima volta che ho visto Bruno Lauzi e ho detto, oh, finalmente, dopo anni e anni e anni, si sono deciso a darmi la targa Tenco e me la vado a prendere, non ha fatto in tempo, sì. Perché purtroppo è scomparso prima. Quindi per dirti come, nonostante che lui fosse un grande, ha scritto delle poesie fantastiche, ci sono due o tre libri di poesie, credo si chiamino Versi Facili, che sono bellissime, però avevano comunque dentro questa difficoltà di convivere con nell'ambiente in cui poi invece dovevano vivere, condividere esperienze, quindi erano personaggi molto particolari. Certo, certo, sì. Anna Maria, allora io volevo parlare anche di due premi importanti, o meglio, due riconoscimenti, mettiamolo lì come meglio è. Uno per dal Presidente della Repubblica, Napolitano. Come sì. Mai hai ricevuto questo premio? Devo ridire di nuovo grazie al progetto sui cantautori genovesi, perché io ho utilizzato la canzone d'autore per promuovere la lingua italiana nel mondo. Quindi ho girato più o meno 40 nazioni con queste canzoni bellissime in paesi dove non capivano una parola, perché insomma sono andata in Turchia, in Sud America forse era già più semplice, ma in Turchia, in Finlandia, tutti i paesi nordici, Lituania, dove proprio veramente era fuori discussione la comprensione, però il messaggio di queste canzoni arrivava comunque. E un bellissimo giorno è arrivata questa lettera in cui mi veniva data questa onorificenza per meriti artistici di Cavaliere dell'Ordine al Merito. E questa è stata veramente una bellissima e graditissima sorpresa che tengo lì nel mio cuore con grande piacere e soddisfazione. Poi se servirà o meno, poco importa. Ma il valore per quello che hai dato proprio al nostro paese. Sì, sì, un po' di valore, un po' di riscoperte, che abbiamo tante cose belle da mostrare. E poi un altro premio importante perché mi piacerà anche leggere poi una tua dichiarazione riguardo a questo. Parliamo del 2007, il premio Porto Venere Donna 2007. Molto bello, emozionante. Me lo ricordo veramente come un momento di forte emozione, soprattutto per le donne che erano state premiate prima di me, non ultime le due recenti scomparse di Rita Levi Montalcini e di Margherita Hacker. Quindi insomma veramente, però anche tante altre, da Ciamaraini, Ottavio Piccolo, insomma della Paola Gassman, tante, la Boniver, la Milena, esatto, Gabanelli, esatto, sì. Tante belle donne, certo. Ma la soddisfazione penso sia anche averti accostato a queste donne, perché sono donne veramente da battaglia, da esatto. Lottano. Però sì. Volevo dire, mi è piaciuta tantissimo una dichiarazione che tu hai fatto a riguardo, e dice, sì. È da tutte queste che io tratto e traggo continuamente ispirazione, per natura e per carattere io non riesco a farmi segnare da una sola persona, ma sì. Raccogliere da ognuna, sia esso uomo o donna, ciò che più mi colpisce e mi impressiona, e a trasformarlo in uno strumento in più da mettere a disposizione della mia vita ed artistica. Insomma, un po' né Dio né maestri. Esatto. Questo è stupendo, questa tua dichiarazione. Veramente ti fa un grandissimo onore, Anna Maria. Grazie, ma tu sei andato veramente a pescare delle piccole chicche di cui neanche io ho più memoria. Per me sono cose importanti, danno valore alla persona. Ti ringrazio, perché guarda, questo io non, cioè, evidentemente risale a momenti a caldo in cui dico queste cose, poi le cancello, e quindi è bello poi quando me le ricordano gli altri. Certe cose rimangono lì, sono scritte e deve rimanere un archivio per tutti. Io consiglio di andare a vedere chi è e cosa fa, ma soprattutto andate a vedere come interpreta tutte queste canzoni Anna Maria. Andate su YouTube, andate lì e vedete come interpreta le sue canzoni. Fra tante cose che tu hai fatto, Anna Maria, hai fatto una cosa molto bella e significativa, Parliamo di Francia, parliamo di Léo Ferré, che è Fiore d'amore ed anarchia, che è una cosa molto interessante anche quella. Sì, è stato un progetto che ha preso le mosse da un altro precedente, perché io ho conosciuto la moglie di Ferré nel 90, aspetta dunque, lui è morto nel 93, io l'ho conosciuto intorno agli anni 2000. E lei viveva e vive tuttora a Castellino in Chianti, io vivo a Firenze, e sono andata a trovarla un giorno e lei mi ha parlato così tra un bicchiere di vino, due chiacchiere di sempre sulle O perché era impossibile parlare d'altro alla fine, di questo bellissimo capolavoro che lui aveva scritto in 40 anni di vita, che era l'Opéra du Pauvre, e l'opera del povero, che raccoglieva le testimonianze di tutta una sua vita artistica, che aveva formato in una sorta di processo fra Dama Ombra, che aveva ucciso Dama Notte, insomma un processo con tutti questi animali strani, sì, questi personaggi che popolavano la fantasia e il linguaggio metaforico che lui utilizzava. Ed è stata un'opera straordinaria che lui aveva composto per 13 voci, recitanti e cantanti, ma che dovevano essere fatte da un'unica voce. Ah. E quando Maria Cristina mi parlò di questa cosa, io dissi, ma devi farmi vedere gli spartiti. Certo. Ed erano buttati tutta la rinfusa in un paio di bauli, e mi disse, guarda, se tu li vuoi assemblare e rappresentarla, ti do l'autorizzazione. Ah, vedi. e in un anno e mezzo di lavoro siamo riusciti a rimettere insieme tutte le parti, abbiamo trovato un'orchestra lituana e abbiamo fatto, invece il direttore d'orchestra era Massimo Lambertini, italiano, siamo partiti io e lui con il figlio di Ferré, la moglie di Ferré, siamo andati a Vilnius e a Vilnius a Kaunas nell'ottobre del 2002 abbiamo fatto la prima mondiale assoluta dell'Opéra du Pauvre, che non aveva fatto neanche Léo, perché Léo non l'aveva mai rappresentata dal vivo, l'aveva fatta soltanto registrata con l'Orchestra Rai di Milano. Certo. Quindi è stata una cosa meravigliosa, e quindi per quello si parla di ricercatrice. A proposito di ricercatrice, tu hai rivisitato un pezzo di Ivano Fossati. È vero. Come mai lui. Ivano Fossati? Prima hai parlato di Luigi Tenco, adesso ci avviciniamo a un cantautore di adesso, Ivano Fossati. Ma è sempre nell'ottica dei genovesi. Eccetera. Però Fossati ha comunque un filone tutto suo, così un po' come Conte, sì, che hanno, diciamo, un po' canzone d'autore, ma nello stesso tempo anche in ambiti un po' più pop, fra virgolette. Sì. E quando io ho sentito Il bacio sulla bocca la prima volta, io sono rimasta estasiata da questa canzone, perché è bellissima, cantata da un uomo per una donna, è bellissima. Però io ho detto, no, la devo cantare anche se so che dovrebbe essere cantata da un uomo. Certo. Perché è proprio, se avete voglia di farlo ascoltare, fatelo ascoltare e poi vi diranno gli ascoltatori che cosa ne pensano di questo capolavoro. Benissimo. Bene, allora Anna Maria, ascoltiamoci Il bacio sulla bocca e dopo introduciamo un po' anche quello che è la seconda parte, andiamo in pratica in teatro, ok? Va bene, ok. Ci importa del mondo, verremo perdonati, te lo dico io, da un bacio sulla bocca un giorno o l'altro. Ti sembra tutto già visto, tutto già fatto, tutto quell'avvenire già avvenuto, scritto, corretto e interpretato da altri meglio che da te. Bella, non ho mica 20 anni, ne ho molti di meno e questo vuol dire, capirai, responsabilità, perciò volami addosso se questo è un valzer, volami addosso qualunque cosa sia, abbraccia la mia giacca sotto il glicine e fammi correre, inciampa piuttosto che tacere e domanda piuttosto che aspettare, stancami e parlami, abbracciami, guarda dietro le mie spalle, poi racconta e spiegami tutto questo tempo nuovo che arriva con te. Mi vedi pulito, pettinato, ho proprio l'aria di un campo rifiorito, e tu sei il genio scaltro della bellezza che il tempo non sfiora. Ah, eccolo il quadro dei due vecchi pazzi sul ciglio del prato di cicale, con l'orchestra che suona fili d'erba e fisarmoniche. Ti dico, bella, che ci importa del mondo? Dentro le mie tasche, poi perdonami, sorridi, guarda questo tempo che arriva con te. Guarda qua. SMS 346 2320 033. Blue Time. Blue Time. Blue Time. Blue Time. Rieccoci in diretta, 21 e 32 minuti. Blue Radio Veneto con voi, carissimi amici, e tra gli amici di Blue Radio Veneto c'è con noi anche Anna Maria Castelli. Fai sempre un tentativo, Anna Maria, di mettere benissimo quel telefono, perché stai dicendo delle cose bellissime, importantissime, non ne vogliamo perdere assolutamente nemmeno una. nemmeno un flash, un secondo. Cara Anna Maria, questo pezzo l'hai condotto, l'hai trascinato, è un pezzo scritto da Fossati, un pezzo cantato da un personaggio maschile, ma tu come fosse tuo, come l'avessi scritto te? Dicono che faccio questo. Ma è questo, è vero, no? Dicono, è proprio così secondo noi, cara Anna Maria. Beh, grazie, mi fa piacere, perché vuol dire che divento allora quello che canto. Sì, perché quando un interprete canta un pezzo, lo fa diventare suo come te, vuol dire che lo sente profondamente e lo fa sentire anche al pubblico. E questo è fondamentale per un interprete, secondo me. Sì. Penso che sia la cosa più difficile da fare, a volte si può cantare bene una canzone e dargli tutti i colori di cui necessita, ma poi non passa, c'è qualche cosa che non arriva. E invece credo che sia proprio abbandonarsi al testo che sia lì la chiave, diventare davvero ciò che si sta cantando, senza voler dare un proprio stile, senza dare una propria impronta, semplicemente lasciando andare. Se il testo è bello, si fa cantare da solo, non ha bisogno di tanti orpelli. L'importante è accettare che il testo sia il protagonista e non voler essere noi i protagonisti. Anna Maria, entriamo un po' nel vivo e parliamo quindi anche di questo progetto. Abbiamo detto che è partito questo progetto, è nato questo CD, Se io ho perso, chi ha vinto, però poi nel 2011 quindi hai portato in scena questo tuo spettacolo, praticamente uno spettacolo veramente originale, firmato da chi, Anna Maria? Beh, dunque, lo spettacolo, i monologhi sono stati scritti tutti da Abner Rossi, che è anche l'autore di 3 o 4 brani che sono dentro il CD. E lui viene dal teatro, è un poeta, è uno scrittore, ha fatto anche alcune regie, è quel signore che ha curato la regia della famosa Terra du Pauvre di Ferré, di cui parlavamo sì. Prima. Ha una bella penna che si è ben sposata con i testi di Alessandro Hellman, infatti è venuto fuori un lavoro corale dove veramente sono arrivati i testi di Abner, sono arrivati i testi di Hellman, le musiche di Rosario Di Bella, di Mario Berlinguer, di Maurizio Gatti, insomma è veramente un lavoro corale. E questo spettacolo teatrale risentiva di tutto questo contributo umano ed artistico, ed era molto, ne parlo al passato perché è difficile nei teatri oggi portare cose belle ed è ancora più difficile portare il teatro canzone, perché il teatro canzone, e qui purtroppo io e sono un po' come quelle signore che hanno premiato il premio Porto Redonda, sempre un pochino in prima linea, devo fare una piccola critica, perché secondo me uno dei problemi è che non siamo andati oltre Gaber, ci siamo voluti fermare un po' a Giorgio Gaber, il teatro canzone è morto con lui, mentre invece ci sono degli artisti, ci sono delle voci, ci sono degli stili nuovi a cui si deve dare l'opportunità, che invece così spesso non è stato e non è tutto, e quindi niente, si continua a fare il lavoro di nicchia, come viene definito ormai, però poi ci sono personaggi come Gilles che ti riconoscono e lì dici bene, io sono a posto così, nel senso quello che faccio mi basta una persona che accuratamente senta tutto il messaggio che io porto quando interpreto le mie cose, che per me è già veramente tanto. Poi tu hai detto una cosa molto bella a proposito del teatro, stavi parlando del teatro, hai detto il teatro è grande, è assolutamente grande, il teatro deve continuare ad essere la voce della coscienza collettiva, deve continuare ad avere il potere di stimolare, di sensibilizzare le coscienze. È vero. È vero, bisogna dargli voce, per quello ti dicevo, bisogna lasciar esprimere, perché l'umanità è molto variegata, le coscienze sono varie, le idee, i pensieri sono molto diversi e dobbiamo rispettarli tutti se vogliamo trovare un linguaggio unico, per quanto sia possibile. Certo, certo, certissimo questo. Quindi questo è un grandissimo omaggio, che non solo omaggio, ma è perché ci crede tantissimo al teatro canzone, possiamo definirlo così, Anna Maria? Sì. È un termine corretto? Sì, e forse ancora un po' di più è la raccolta di un testimone, perché Gaber quest'anno è stato il decennale della sua scomparsa, sì. E questo testimone non è stato raccolto, perché, non so, però di fatto non ho trovato molte persone disponibili a fare quel lavoro che Gaber e Luporini, perché erano due, non era soltanto Giorgio Gaber, ma c'era la splendida penna anche di Sandro Luporini dietro, hanno portato avanti per oltre 30 anni, perché anche Gaber, quando ha deciso a suo tempo di chiudere con la parte televisiva per dedicarsi al teatro e per fare ciò in cui sentiva, anche ciò che sentiva e ciò in cui credeva, e ha cominciato a lavorare con Sandro Lupurini in questa collaborazione che è arrivata fino all'ultimo giorno di vita di Giorgio Gaber, credevano profondamente in quello che stavano facendo. Questo messaggio è un po' morto con Giorgio Gaber, per cui poi anche Sandro Lupurini non ha più avuto lo stimolo, ha scritto anche per altri ma non è stata data notizia, e ci sono tanti artisti che cercano di fare teatro canzone, ma c'è dell'ambiguità, non si sa bene cosa sia il teatro canzone perché non c'è una scuola. Io infatti faccio scuola di teatro canzone per chi vuole capire e imparare che cos'è, perché non è recitare e cantare, no, non c'è questo trattino, non c'è una congiunzione, è un unico. È un unicum, giusto. Esatto. A proposito di, scusami se raccolgo queste parole, perché dici sempre delle cose importanti, no? Insieme alla scomparsa di Gaber, fosse scomparsa anche una particolare capacità di osservare, di criticare, di sottolineare ciò che ci circonda. Sinteticamente hai proprio detto tutto su questa tua ripresa nei confronti di Giorgio Gaber. E lo si avverte, appunto, come dicevo anche prima, quando ti si ascolta, ti si guarda, perché bisogna anche guardarla, come vi ho detto prima, Anna Maria, quando spero di avere l'occasione, e vi invito anche voi, sarà, dopo ne parleremo in chiusura, sarà anche qui nel Veneto, Anna Maria. Però tu, quando la vedi che interpreta e ascolti il suo testo, ti lascia dei dubbi, ti fa riflettere. Questo che il messaggio, penso, che quello che tu hai raccolto di Gaber e che continui a dare alle persone che ti ascoltano. Sì, faccio una piccola aggiunta. In un monologo che è contenuto in questo spettacolo, Se ho perso ti ho vinto, c'è Adrian Rossi che scrive una cosa proprio riguardo a questo dialogo a un certo punto tra la protagonista e Gaber, con anche una critica, perché alla fine la gente ha perso un po' lo spirito critico nei confronti di uno spettacolo, di un concerto, di un film, e cerca anche un po' di omologarsi, nel senso, se quello ride, rido anch'io, se quello dice che gli piace quel tale artista, mo sarà bravo, cioè si è un po' perso lo spirito critico, e soprattutto si ha paura di criticare. E questa è una cosa che mi disarma, perché io mi rendo conto che quando dico, esprimo una mia opinione, un mio parere, devo capire, intuire se quello di interlocutore, io francamente me ne frego, però vedo che c'è tutta una danza di pantomime varie per capire, intuire se quello di fronte la pensa come te o non la pensa come te. Cioè, ma la verità dove sta? Non esiste allora. Chi sono io, chi sei tu, se non siamo veri, se non io con quello che penso e tu con quello che pensi, se ci giriamo intorno per osservarci e per scrutarci per poi non dire nulla. Quindi tutta questa superficializzazione, che era la stessa che infastidiva ormai Gaber negli ultimi anni del suo lavoro, si è addirittura, adesso è esageratamente, si nota proprio in tutti gli atteggiamenti quotidiani delle persone, e quindi questa capacità di osservare è questa, cioè io ti osservo ma tu mi osservi, teniamo conto l'uno dell'altro. Quindi insomma, non vorrei sembrare una persona troppo seria, perché so anche ridere tanto. Anna Maria, guarda, io direi, siccome abbiamo altre tre canzoni con quelle che facciamo ascoltare adesso, diamo spazio alla musica, di tempo. Ti faccio dire due parole su Una vita in self, che è la prossima canzone che ascoltiamo. Lascio parlare la canzone. Bene, perfetto. La sentiamo allora. Thank you. Ieri è passato e domani non c'è. Si ricorda quel giorno di tanti anni fa, quell'oltre la porta del suo appartamento, felici sposini di certo spaesati e un po' timorosi. Non si ricorda, troppo tempo è passato, eppure promise una volta per tutte l'amore, l'amore, l'amore per sempre. E adesso lei dice di esser deluso, che sono cambiata, che quella donna di tanti anni fa l'ha persa per sempre. È stata distratta da cento altre cose, diverse da te, diverse da te. Bugiardo e imbroglione, lo sei sempre stato, ma ora di più. Ma non ti ricordi il tuo capufficio? Le sere da sola, la tua segretaria, i baci mancati, la mamma che chiama, il giornale da leggere, il ronfare di notte, la pressione alta, la televisione, poi questo, poi quello, il sesso distratto, la mia delusione, la spesa alla Coop, le cene in silenzio e i figli, la scuola e il mutuo di casa. E la tua carriera, la macchina nuova, lo sport in TV, la pesca sportiva, il ciclo amatore, le rate in scadenza, andare per monti, gli amici ogni tanto, e poi il pokerino, l'amante nascosta, papà che sta male, il figlio che fuma, la figlia imbecille che scappa di casa, la zia lontana, di nuovo la mamma. Il nuovo lavoro, le riunioni la sera, ancora l'amante, lo sguardo lontano, la televisione, a cena alle 8 e la colazione, aspettami cara, ritorno domani, e il tuo cellulare incollato all'orecchio e i tuoi messaggini, tutta la vita una somma di scuse. Tutta la vita una somma di scuse. Tutta la vita una somma di scuse. Mio caro signore, stasera è finita e la sua distrazione la tenga per sé. Domani c'è il sole, domani c'è il sole, ma solo per me. Domani c'è il sole, domani c'è il sole, ma solo per me. Domani c'è il sole, domani c'è il sole, ma solo per me. Blue Time. Blue Time. Blue Time. Blue Time. Rieccoci Anna Maria, io volevo, l'abbiamo ricordato all'inizio, però volevo sottolineare ancora chi ti accompagna in teatro. E che musicisti che danno maggiore valore alla tua voce, che sono Marco Cremaschini, piano e tastiere, Thomas Sinigaglia, fisarmonica, e c'è anche Simone Guiducci alla chitarra. Dico bene, sì, Anna Maria? A volte sì, a volte no, dipende dal tipo. In teatro ormai vado soltanto con Marco, con Thomas, perché dopo il disco si è veramente creato un'unità, un'unione veramente unica. però a volte anche Simone invece è stato molto, molto più presente nel disco dei cantatori genovesi, nei tour, eccetera. Ogni tanto viene più come ospite speciale, tra virgolette, però il corpo centrale sono Thomas e Marco. Anna Maria, questo pezzo molto gaberiano, secondo me, e anche gaberiano dal punto di vista musicale, tra swing e talking blues, molto swing, un po' meno talking blues, perché questa scelta musicale similare, Anna Maria? Ma è stato Mario Berlinguer, che è un personaggio veramente particolare, perché lui riesce a comporre, lui è un compositore a tutto tondo, però riesce, se voi ascoltate i brani che ha composto, che sono, l'ha messo, dunque, ha fatto le musiche di Animali da palcoscenico, di Je ne sais pas, di Una vita in surf, di Girotondo, sono quattro cose completamente diverse l'una dall'altra. Certo. Quindi è così, è eclettico, quindi la scelta gli è venuta, questo testo gli ricordava, gli faceva proprio, gli evocava questo tipo di mood, l'ha scritta così ed è perfetta, perché è il vestito perfetto per questo tipo di testo. Certamente, tu ci, come si dice, ti butti piacevolmente nel mare delle scelte eclettiche, perché tu sei una persona assolutamente eclettica dal punto di vista vocale, certamente. Esatto, io nelle penne eclettiche tanto per utilizzare questo termine, di Hellman, di Arne Rossi, di Mario Berlinguer, di tutti, cioè sì, sì. L'importante è essere versatili. Ecco, versatili è una cosa giustissima. Dal punto di vista professionale, Alessandro, che persona è? È eccezionale, a parte di una correttezza straordinaria. Io ho conosciuto Alessandro tantissimi anni fa, mi aveva sottoposto questi alcuni testi, che io non sapevo all'epoca cosa farne, quindi gli dicevo: guarda Alessandro, in questo momento sto facendo altre cose, però sempre so che succederà qualcosa fra noi. E lui è una persona estremamente corretta e nello stesso tempo con grande discrezione. Ogni tanto però ti coccola, ti seduce, quindi, esattamente come le parole delle sue canzoni. E quindi è una persona che va assolutamente conosciuta, scrive delle cose di una raffinatezza e di un'intelligenza straordinarie, il che sommato poi ha una grande sensibilità, ha un senso della misura considerevoli, fanno di lui un personaggio veramente interessante. Ecco, allora a questo proposito io direi che possiamo, allora, visto che parliamo di Alessandro, introdurre la prossima canzone, che è una sua canzone, il testo è suo. Di cosa parliamo quando parliamo d'amore? Pezzo meraviglioso, cara Anna Maria, noi l'abbiamo messo su nei nostri programmi per un mese consecutivo, ma ci ha innamorati assolutamente questo pezzo. Che bello, io l'ho trovato bellissimo. Bene, sono molto contenta. Allora buon ascolto. Ecco, lo sentiamo, ok. Di feroci certezze e di teneri dubbi, di inattese carezze e improbabili sogni, di sorrisi in vetrina, di pianure e stagioni, di ridicoli sbagli e distratte attenzioni, di chilometri in coda e un rosario di giorni da sfilare con cura aspettando che torni. Di questo parliamo, di questo parliamo. Di questo parliamo quando parliamo d'amore. Di questo parliamo, di questo parliamo. Di questo parliamo quando parliamo d'amore. Sacche di sale, cortili in prigione, giravolte di scale per un bacio di sole, di parole già dette che fioriscono nuove, di parcheggi annegati. È una vita che piove, di aeroporti, stazioni, auto e riva alla notte, e di quel che rimane che è un po' meno di niente. Di questo parliamo, di questo parliamo. Di questo parliamo quando parliamo d'amore. Di questo parliamo, di questo parliamo. Di questo parliamo quando parliamo d'amore. Purtroppo pochissimi minuti. Esattamente, purtroppo pochissimi minuti. Cara Anna Maria, quando abbiamo ascoltato, quando è arrivato il disco in radio, chiaramente abbiamo sentito tutti i pezzi, ma mi sono fermato immediatamente su questo, era più forte di me e lo continuavo a sentire continuamente perché ha un fascino incredibile. Secondo me la melodia ti entra lentamente ma progressivamente. I ragazzi dei Meschina che sono qui davanti, che poi seguirà dopo la tua intervista, anche loro sono stati attratti da sto pezzo in modo incredibile. Anna Maria, no, sono contenta perché è un pezzo che anche a me piace molto, è veramente un grande pezzo, bisogna dirlo questo. C'è un futuro per il teatro canzone, Anna Maria? Caro, no, mi fai una domanda a cui non so darti una risposta. Sicuramente la tua speranza è enorme. Spererei di sì, ma la vedo dura. La vedo dura, ma non perché manchino le voci, ma mancano gli spazi, manca il crederci, manca... La cultura e la voglia di fare cose, cioè, oddio, non voglio essere così totale, qualcuno c'è, ma sono troppo pochi per le urgenze che invece ci sono. Scusa Anna Maria, sì? dimmi. No, beh, di là in studio si... No, scusa, stavamo discutendo sul tuo pezzo, Anna Maria, dimmi. Infatti sentivo che c'era... Sì, stavano discutendo proprio del tuo brano. Ecco. No, appunto stavo dicendo del teatro canzone, quindi io spererei di sì. Speriamo, le voci ci sono, ci vogliono più spazi diretti da persone un po' più illuminate, con la voglia di fare ascoltare, far vedere cose un po' più interessanti e che facciano un po' meno cassetta. È una bella frase questo. Purtroppo c'è gente che aspira molto alla cassetta in questi ultimi tempi, cosa dice Anna Maria? Questo, un po' per necessità, perché bisogna essere onesti, i tagli ci sono, la gente non ha più voglia di andare a teatro, ancor meno, ma anche al cinema, certo, ai concerti, se bisogna scegliere dove spendere 20 euro si preferisce andarsi a mangiare una pizza, purtroppo è così, finalmente ci sono riusciti a farci cambiare la mentalità e adesso dobbiamo invertire di nuovo la rotta. Chissà mai se su questo progetto magari ci starà anche un libro, Anna Maria, chi lo sa? Ah beh, insomma, se la penna di Alessandro Helman si scatena, quella di Abner Rossi, no, Siamo a posto, insomma, sarebbe io ci metto la firma. Sarebbe interessante. Anna Maria, una cosa importantissima, le tue prossime date, soprattutto quelle qua nel Veneto, che mi dicevi che ne hai un paio, mi sembra. Un paio, sì, una è dopodomani, il 26, al chiostro del conservatorio dell'Abaco, c'è questo progetto molto bello che è un progetto dedicato ai DPF, quindi ancora musica francese, e con gli archi del conservatorio, Thomas alla fisarmonica e Moro, e non mi ricordo il nome purtroppo, alla chitarra. E poi l'altro invece, altro progetto ancora, il 4 settembre a Padova. Non ricordo ancora il posto, ma questo è perché il neurone è unico e quindi poverino è impegnato su molti fronti, ed è un progetto creato in occasione del quarantennale del golpe cileno, che ricorrerà l'11 settembre, e abbiamo fatto questo progetto che si chiama Poeti dell'America Latina, e quindi canzoni di Violeta Parra, Victor Jara, e oltretutto il 4 settembre saremo a Padova, invece il 10 saremo a Milano, il giorno prima degli Intillimani, all'Auditorium della Camera del Lavoro. Quindi, insomma, un altro progetto ancora, questo tanto per far capire quanto sono versatile, insomma. Bene, Anna Maria, siamo arrivati alla chiusura. Io devo ringraziare, noi dobbiamo ancora ringraziare l'etichetta Mare Mosso, ringraziare Alessandro Helman, ma soprattutto anch'io ringraziare Anna Maria Castelli che ci ha permesso questa intervista, piacevolissima intervista. Grazie, io ringrazio moltissimo voi e tutti, anch'io ringrazio molto l'etichetta che ha creduto in questo progetto, gli ascoltatori, chi è in studio, mi piace che stiate discutendo di un brano del disco, perché a questo deve servire, quindi grazie a voi per questa splendida ospitalità, è stato molto piacevole. Grazie a te Anna Maria. Ciao Anna Maria e buon proseguimento anche a te della serata e per i tuoi prossimi impegni. Grazie, a prestissimo. Ciao grazie Maria. A te. Buonanotte a tutti, ciao. Ciao. Ciao. La minoranza gode la sua fertile stagione di abbondanza. La minoranza siede in una comoda e stordita sonnolenza. La minoranza crede fermamente nella propria sussistenza. La minoranza spiega le sue ali tra i confini di una stanza. La minoranza porta nelle vene il seme dell'appartenenza. La minoranza sta al balcone di una rispettabile apparenza. La minoranza cura il bel giardino della propria convenienza. La minoranza naviga nel mare calmo dell'indifferenza. La minoranza vive sul confine della pubblica decenza, alla pancia piena di caviale e di arroganza. Sa perfettamente mantenere la distanza, fa beneficenza di una briciola se avanza. Se avanza. la minoranza guarda il mondo intorno con sospetto e diffidenza. La minoranza chiude tutti gli altri fuori dalla sua coscienza. La minoranza mostra le sue stimmate e poi ruba con prudenza. La minoranza non è perseguibile di fronte all'evidenza. La minoranza vive sul confine della pubblica decenza, alla pancia piena di caviale e di arroganza. Sa perfettamente mantenere la distanza, fa beneficenza di una briciola se avanza, se avanza. La minoranza obbliga il pianeta a un esercizio di pazienza. Ama il dire e il fare, ma non sa la differenza. La impressiona il sangue, non sopporta la violenza. Coglie a piene mani i suoi gettoni di presenza. Si trasmette senza interruzione o interferenza. La minoranza cala giù dall'alto come un atto di clemenza. Milita al servizio di un'oscura provvidenza. È depositaria di millenni di ignoranza. La minoranza vive sul confine della pubblica decenza, alla pancia piena di caviale e di arroganza. Sa perfettamente mantenere la distanza, fa beneficenza di una briciola se avanza, se avanza. La maggioranza